più di un secolo che il ghiacciaio della Marmorata è sotto controllo. È un controllo annuale che viene fatto sulla maggior parte dei ghiacciai italiani e che serve a monitorare lo stato di salute degli apparati glaciali. Quello che abbiamo osservato è che i ghiacciai italiani e il ghiacciaio della Marmorata in particolare è un ottimo indicatore dell'andamento climatico. Sono in ritiro, è un ritiro costante che è iniziato a partire dalla metà dell'Ottocento e sia pure con alcune debolissime fluttuazioni o meglio stazionarietà, queste fasi di ritiro ha portato ai giorni nostri ad avere delle diminuzioni reali, ma soprattutto delle diminuzioni di volume che nel caso della Marmorata arrivano a sfiorare il 90% del volume del ghiacciaio. Quindi è il surriscaldamento globale il responsabile di questo ritiro dei ghiacciai? Sì, noi abbiamo un legame diretto tra quello che è il riscaldamento globale e quello che è il comportamento, specialmente i piccoli ghiacciai alpini, che sono quelli che reagiscono molto più rapidamente al cambiamento climatico. L'aspetto che ci deve fare preoccupare è che rispetto ai modelli che avevamo ottenuto 20 anni fa, noi oggi osserviamo una accelerazione nella velocità di ritiro e questa accelerazione è progressivamente più elevata. Negli ultimi anni abbiamo avuto dei ritiri che sono magari il doppio o il triplo di quello che si osservava 20 anni fa. Lei è uno dei firmatari di una lettera, di un appello che riguarda una pratica che è la copertura con dei teloni di questi ghiacciai, non serve per salvare ghiacciai. I teli che sono stati sperimentati in molti ghiacciai, tra i quali anche il ghiacciaio della Marmorata, hanno una funzione che è quella di preservare parte del ghiaccio. Ovviamente questo è legato allo sfruttamento del ghiacciaio per lo sci. È impensabile utilizzare quei teli per ricoprire interamente i ghiacciai, perché questo avrebbe un costo in termini economici ma anche di inquinamento. Dobbiamo pensare al materiale plastico che viene portato in quota, alla necessità di avere dei mezzi che lo stendano, al fatto che non sempre questo sarebbe possibile e in ogni caso si tratta sempre di un palliativo, cioè di un rallentamento della velocità di ritiro, ma non di una soluzione. Cosa potremmo fare noi per come dire, arrestare questo problema? Noi abbiamo due possibilità, una a lungo termine che non è interamente in mano al cittadino, ma il cittadino può fare leva sulla classe politica perché diventi anche una sua azione, che è quella di ridurre l'emissione dei gas serra, cioè invertire la tendenza attuale. Questo ovviamente è uno sforzo enorme, colossale, che implica un cambiamento delle intere dinamiche economiche mondiali e che avrà dei tempi lunghi per il recupero, cioè vuol dire decine di anni o forse anche centinaia di anni. Ma questa è certamente una direzione verso la quale ci si deve porre. Nel breve termine noi non possiamo intervenire su dei meccanismi climatici che mettono in gioco delle enormi quantità di energie, quindi quello che possiamo fare è adottare strategie di adattamento. Adattamento vuol dire cambiare qualche abitudine, vuol dire cambiare qualche sistema. Banalmente, se in un ghiacciaio come la Marmorata è aumentato il rischio di crolli, bisognerà trovare dei percorsi alternativi più sicuri per il turista che può raggiungere la vetta. Se abbiamo un problema di crisi idrica come abbiamo oggi, bisognerà mettere in atto tutte quelle soluzioni che consentono di sfruttare meglio la risorsa idrica, per esempio passare l'irrigazione a goccia quando questo sia possibile, evitare le perdite idriche, razionalizzare l'uso dell'acqua, cioè sono tutte modalità di adattamento al cambiamento climatico che ci consentono in qualche modo di far fronte a questa svolta epocale per il clima ma anche per l'economia e la società.